vista. I mille aspetti dell'attualità. E ci sarà un picco di carenze nella professione medica dal 2017 al 2023. Buongiorno ancora una volta da Irene Zerbini. Ci siamo spostati in avanti per vedere cosa succederà e nelle corsie degli ospedali e negli ambulatori e nei corsi universitari di medicina. E dunque dal 2017 al 2023 più o meno ci saranno 88.000 pensionamenti. Anche da questo si deve partire per capire cosa si profila all'orizzonte. Intanto però sembra perdere d'appeal la professione del medico per diverse ragioni che cercheremo di indagare insieme. Partiamo dal calo di richieste di studenti con la maturità per i test di medicina. Sono scesi, lo segnalava Repubblica ieri, rispetto all'anno precedente di 3.548 unità, cioè se vogliamo dirla in termini percentuali 5,6% in meno rispetto all'anno 2014. Ma se facciamo un salto ulteriore all'indietro e andiamo al 2013, il crollo è ben più decisivo. Stiamo parlando di un meno 28% insieme. Ora, richieste tra tutte le università italiane sono 60.639, lo diamo all'ultima unità, gli iscritti ai test di medicina. Andranno ad affrontare questo test d'ingresso l'8 settembre. Sarà una prova da 60 domande. Sono sempre meno mediche queste domande, sono sempre più di logica ed è anche divertente scorrerli questi test. Se avete la possibilità di farlo, ci sono pubblicati anche via internet quelli dell'anno scorso e degli anni precedenti. Si parla perfino di turismo. E quello che emerge chiaro è che in cima ai desiderata dei ragazzi rimane la professione del medico, ma in qualche modo è un appeal che si sta incrinando. Perché? Sono forse le difficoltà di una preparazione lunghissima che richiede facoltà e scuola di specialità, o è piuttosto la prospettiva di lavorare per anni con delle borse di studio, con degli inquadramenti molto precari? Come sappiamo, infatti, in Italia abbiamo diversi sistemi regionali per quel che riguarda la sanità, ma in generale ci sono questi contratti che sono contratti da liberi professionisti, libero professionali sono chiamati, e a fronte di responsabilità piuttosto sostanziose offrono al medico, al giovane medico, circa 1.000 euro al mese. Oggi invece fa discutere la richiesta, la proposta finora del Ministero che per ridurre le spese alla sanità i medici possano in qualche modo schermarsi, perché dovrà essere il paziente a dimostrare che il medico ha sbagliato. Una professione, insomma, che finisce sempre più sulle prime pagine dei giornali per questioni che con la salute hanno poco a che vedere. E forse è proprio questo a scoraggiare la prospettiva e la possibilità per i giovanissimi di intraprendere una carriera tanto complessa, e non solo per la diagnosi o la terapia che si deve adottare, ma per il tipo di questioni burocratiche e politiche che intorno ai camici bianchi stanno sorgendo sempre di più. Voi cosa ne pensate? Ditecelo al 349-238-6666, perché proprio di questo discuteremo, di come è cambiata anche nella percezione collettiva la figura del medico. Alcuni ci hanno cominciato a spedire dei messaggi riguardo al fatto che l'anno scorso sono stati ammessi alla facoltà migliaia di ragazzi che non erano stati ammessi inizialmente ma che avevano fatto ricorso, e quindi questo forse ha inficiato un po' anche la credibilità con la fuga delle risposte corrette ai test, quello scandalo insomma che ha caratterizzato questo aspetto dell'Accademia Italiana nell'anno precedente. Questo può essere senza dubbio un elemento, ce ne sono altri, ne parleremo dopo le 8:30. Ora andiamo a incontrare il nostro corrispondente straniero. Visti da fuori. Welcome, Philip Willam, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Philip Whelan è un giornalista molto particolare perché è un freelance, scrive per il Times, ma soprattutto è uno scrittore che dell'Italia racconta un aspetto sul quale si soffermano poco i tuoi colleghi della stampa estera. Cioè, raccontaci in cosa sei specializzato, Philip. Ma mi sono specializzato un po' negli scandali e misteri del periodo della guerra fredda in Italia, che quando ho cominciato era attualità, adesso è storia recente, e trovo che è un filone di ricerca molto ricco, perché l'Italia in quei tempi era proprio un paese di frontiera divisa al suo interno fra il più grande partito comunista dell'Occidente e una affiliazione all'Occidente capitalista e democratica, e in più c'era anche la presenza del Vaticano, che aveva un forte interesse nell'esito di questo scontro, e dunque è successo di tutto e di più, ed è molto interessante tentare di panare la matassa e capire che cosa è successo e perché. E quindi Philip Whelan, che è di nazionalità britannica e anche sangue scozzese, come ci hai spiegato, ci rivela alcuni di quelli che sono in retroscena dei misteri del nostro passato. Ed è molto bello vedere come spesso la storia, anche italiana, sia colta, sia osservata, sia indagata in profondità proprio da persone che hanno una cultura diversa. Mi chiedevo, i tuoi libri, perché tu scrivi, oltre alle tue corrispondenze sul Times, soprattutto libri, quindi fai inchieste, indagini, l'Italia dei poteri occulti è al centro del tuo lavoro, Puppet Masters, cioè l'uso politico del terrorismo in Italia è uno dei tuoi titoli, The Vatican at War è un altro. Dove vengono pubblicati e soprattutto a chi sono destinati? Cioè, sono gli studenti, gli accademici, e coloro che hanno un genitore italiano che leggono questo tipo di inchieste? Chi si interessa a questi argomenti, Philip? Io spero moltissima gente, però realisticamente penso che effettivamente sono gli studenti che si occupano dell'Italia o della storia contemporanea che acquistano i miei libri. Sono temi che io penso che dovrebbero interessare a molta gente. E ho sempre sperato che anche negli Stati Uniti abbiano un buon mercato, perché il ruolo degli Stati Uniti in queste vicende è molto importante, poco conosciuto, però effettivamente ho avuto, i libri sono stati pubblicati in Inghilterra, ma non sono mai riuscito a convincere un editore americano a prendere i libri, e attualmente sono i due libri che ho fatto, due e mezzo veramente, sono stati ripubblicati da un editore americano, però che vende in tutto il mondo e che vende ultimamente vende poco negli Stati Uniti. Cioè, hanno penetrato altri mercati che leggono in inglese e poco gli Stati Uniti. In italiano sono tradotti? Sì, sono stati tradotti. Il primo, Puppet Masters, è stato tradotto col titolo I burattinai, e ha venduto, penso, molto bene per circa un decennio. È stato pubblicato da Tullio Pironti, un editore napoletano, e anche l'Italia dei poteri occulti era la versione italiana del mio secondo libro su caso Calvi, che è stato pubblicato inizialmente col titolo The Last Supper, e poi è stato aggiornato e ampliato, e si chiama adesso in inglese The Vatican at War. Stavo aspettando che Newton Compton pubblicasse anche la nuova versione, avevano addirittura firmato un contratto per farlo, poi sembra che abbiano cambiato idea, non è successo più niente. Dunque, e che Italia... sono sempre in attesa. Sei sempre in attesa, se sono all'ascolto chissà si fanno vivi dopo questa chiacchierata. Tu hai parlato della P2, hai parlato di Calvi, hai indagato i rapporti che c'erano tra i servizi segreti americani e la P2, il ruolo del Partito Comunista Italiano, le Brigate Rosse, hai parlato del sequestro Moro. Che Italia emerge dai tuoi libri? È un'Italia molto travagliata. Quando il terrorismo qui era al picco, erano veramente giorni terribili. Se si ripensa ai giorni del sequestro Moro, uno dei politici più importanti del paese, che viene sequestrato su una strada romana con l'uccisione delle sue guardie del corpo, sparisce per 55 giorni, nessuno sa, o apparentemente nessuno sa dove si trova, giornate di angoscia terribile a livello nazionale, e poi la conclusione cruenta dell'uccisione di un uomo inermo da parte dei suoi carcerieri, veramente giornate di crisi e di dramma che è difficile immaginare adesso. Io avevo già un collegamento con l'Italia anche in quei tempi, perché la mia famiglia viveva qui, però all'epoca studiavo a scuola e all'università all'estero, e dunque la conoscenza diretta di quell'epoca e di quei fatti mi è sfuggito, e l'ho scoperto dopo con le mie ricerche. E questo ha intrigato la tua curiosità, naturalmente, di corrispondente. Eppure, quando si parla degli anni Ottanta, è vero che il sequestro Moro risale al 78, si hanno sempre questi aggettivi di felicità, nonostante poi in realtà si sono aperti anche con la strage di Bologna, della stazione di Bologna. Furono anni che tu hai salvato nei tuoi libri per restituire agli italiani un po' la consapevolezza della propria storia, ma è come se noi italiani un po' non avessimo raccolto questo tuo messaggio, visto che è stato tradotto un solo libro e si conoscono poco queste tue indagini. È un tuo desiderio poterne parlare di più anche qui, non solo agli anglosassoni ma in Italia? Sì, senz'altro, sono temi che interessano soprattutto agli italiani, sono infatti avvenuti qui. Sono stati veramente tradotti tutti e due i libri, dunque per un certo periodo tutti e due sono stati disponibili, e sono sempre disponibili adesso in inglese, però è chiaro che è un argomento che riguarda soprattutto gli italiani, e non sono naturalmente l'unico ad occuparsene. Moltissimi colleghi italiani molto bravi hanno scritto di questi temi, sono temi che chi vuole approfondire ha l'imbarazzo della scelta, però è anche vero che visto che rimane ancora un alone di mistero su molte di queste vicende, può capitare per esempio che un personaggio come Massimo Carminati, che è stato protagonista di vicende efferate del passato, abbia passato anni nell'ombra, tramando e reinventandosi, e poi emerga dal buio e si scopre che è uno dei re di Roma, di questa mafia capitale, che dà un'immagine della capitale estremamente preoccupante e anche, devo dire, deprimente, dove la corruzione è normale, è sistema, e si scopre che questo personaggio da un passato molto tetro è uno di quelli che comandano. Questo dimostra ancora di più l'attualità dei temi che tu hai indagato e di cui hai scritto e di cui continui a scrivere. Philip Whelan, c'è una cultura del segreto, dell'accesso agli atti diverso tra gli italiani e, per esempio, il mondo anglosassone? Sì, direi di sì. Devo dire che in Gran Bretagna lo Stato è molto attaccato al segreto, e il segreto è una cosa seria, e quando lo Stato vuole evitare che si scopra i suoi segreti è generalmente molto efficiente nel nasconderli. Invece in Italia molte cose sono segreti aperti, cose che mai chiarite definitivamente, che moltissima gente sa o vocifera. Molti atti adesso disponibili, è sempre più uno sforzo per mettere a disposizione i documenti del passato, chiaramente non credo tutti, e delle volte fatto in un modo disordinato che dà l'impressione che la volontà è di seppellire la verità sotto una massa di documentazione di scarso valore, che rende molto difficile capire ciò che veramente è successo e ciò che è importante selezionare e leggere. Sì, dunque il risultato nei due paesi è forse simile, che le cose che lo Stato non vuole che si sappia difficilmente si sa. Speriamo che tu continui con queste tue inchieste e con questa lettura sicuramente degli anni di piombo. Tanti, come hai detto tu, giornalisti anche italiani hanno scritto, ma la tua prospettiva, la tua ottica ha quella ricchezza, quella distanza che spesso solo chi è nato altrove, ha studiato altrove, ha frequentato scuole diverse può portare nella lettura delle cose. Philip, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E Philip Whelan, l'avete sentito, è un giornalista freelance, corrispondente per il Times e autore di libri su quelli che sono definiti gli anni di piombo e le questioni adesso legate in Italia. Naturalmente trovate alcuni degli estratti anche nelle vostre ricerche via internet, ci stanno chiedendo il titolo in inglese, allora ve lo ripeto: The Vatican at War e Puppet Masters, che è stato tradotto in Italia, ce l'ha raccontato anche lui, con il titolo I burattinai, e prende in esame l'uso politico del terrorismo nel nostro paese. Visti da fuori ritorna ancora domani e poi per altre due volte fino al termine di questa edizione di Spunti di Vista, che si concluderà venerdì. Noi torniamo tra pochissimo per affrontare il tema di questa parte della trasmissione, vale a dire l'accesso ai test di medicina. Perché è in calo? È la figura del medico che sta subendo una sorta di erosione del consenso, dell'appeal nel prospettiva, nell'orizzonte, soprattutto nell'immaginazione per il proprio futuro dei giovani, o ci sono anche altre motivazioni? Tra poco torneremo con le vostre esperienze. Linea alla regia. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E rientriamo anche noi con un numero, è quello telefonico. 800 24 00 24. Nicola, buongiorno. Pronto? Buongiorno, Pronto? Sì, la sento, dica. Niente, io sono uno specializzando in medicina e quindi posso raccontare in prima persona un po' quelli che sono i motivi per cui una persona potrebbe decidere di non intraprendere il cammino di diventare medico, che è un bel sogno, un sogno che però costa 11 anni, tra i 6 anni di medicina e i 5 o 4 di specialità, un sogno che trova inizialmente un ostacolo, che è il test. Quando lo feci io nel 2009, uno su 8 passava, e quindi già lì è una forte strematura. Poi 5 anni di medicina, con i tirocini svolti nei vari ospedali, quindi mandati più o meno in varie strutture ospedaliere, che possono essere, nel mio caso, essendo io laureato a Milano, nella Bergamasca, nel Lecchese, nel Comasco, anche nel Varese. E dopodiché il test paradossale, quello che sappiamo tutti, il test di specialità, dove soltanto circa uno su due specializzato, cioè già laureato in medicina, può accedere alla specialità. In teoria dovrebbe essere il coronamento del proprio studio, cioè raggiungere una specializzazione. Invece nel nostro stato purtroppo si è limitati, perché i posti sono un numero chiuso, sono soltanto, quest'anno erano 6.000 su un totale di 13.000 iscritti, e quindi la difficoltà di accedere, e con un numero sempre crescente di neolaureati medici che non riescono a specializzarsi, con successiva difficoltà a trovare lavoro, o meglio, lavoro. Nicola, io non l'ho interrotta perché veramente lei ha fatto un quadro esaustivo di quelle che possono essere le motivazioni. Lei è pentito di aver fatto questa scelta? No, pentito no, perché è quello che ho sempre voluto fare. Cioè, ho iniziato i miei studi, ho deciso di fare il liceo classico ai tempi proprio per poter fare medicina. Però adesso che ti accorgi di avere 28 anni, con lo stipendio che prendi, e ti accorgi di far fatica arrivare a fine mese, dici: caspita, ma io sono un laureato in medicina in Italia, ho sempre avuto una media elevata, perché questo mi ha permesso di laurearmi a pieni voti, mi ha permesso di accedere in specialità come primo, come uno dei primi posti nazionali. Nonostante eppure queste difficoltà, cioè l'aspetta una strada ancora difficile. Ancora difficile, ancora 3 anni di quasi 4 anni di specialità, a uno stipendio che mi verrebbe voglia di poter, se posso dirlo, tanto perché almeno si sappia, lo dica. Paradosso. Lo specializzando prende una borsa di studio da 22.500 euro, alla quale vanno sottratte le tasse universitarie, che sono 2.200 euro che ogni anno dobbiamo versare, e a questa cifra, che sono quindi 1.600 al mese, viene detratto quasi 200 euro di IMSS, quindi diventa intorno ai 1.400 per un monte ore mensile, e alla fine si esce a guadagnare circa 6,20-6,40 euro, perché facciamo tra le 220-240 ore mensili, perché come si sta specializzando, inizia alle 7 di mattina e va a casa alle 8 di sera, tutti in i giorni. In cosa si sta specializzando, Nicola? Poi dopo sarà rintracciabile, però. Comunque un'area chirurgica. No, quindi non ce lo vuol dire, vabbè, non ha detto niente di male. Un'area chirurgica, no. Sì. Non ha detto niente chirurgica. Che abbia una rilevanza penale, non si preoccupi, molti si stanno rispecchiando proprio in quello che lei ci ha raccontato, dottore, e la ringraziano tantissimo per questa fotografia che è riuscito a scattare mantenendo la passione, perché l'ha sempre detto, era il sogno della sua vita e rimane il sogno della sua vita. Grazie, naturalmente in bocca al lupo per il futuro, e speriamo che tutti questi sforzi vengano ripagati. Giulia, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. È anche lei una studente speciale? No, ho passato da tempo. È un dottore anche lei? Io sono un medico e mi sono occupata di educazione anche dei medici. Di formazione, diciamo tempo, così. Di formazione, conosco bene i sistemi, adesso ultimamente meno, ma so che hanno inserito un nuovo sistema per entrare in specialità, e che è nazionale, mentre il fabbisogno è calcolato, cioè i sistemi sono regionali, quindi c'è una discrepanza fra le modalità di entrata e di valutazione di quanti specialisti servono. E come ha detto il dottore di prima, la specialità non è una cosa così che uno sceglie all'ultimo momento, la specialità è qualcosa che uno pensa, immagina già quando si iscrive o dopo pochi anni che ha capito. Ma ci spieghi meglio, perché ed voi... è praticamente un terno all'otto. Giulia, ci spieghi meglio, scusi, questa discrepanza tra i numeri messi a disposizione e i numeri non che invece... Non c'è nessun calcolo sul fabbisogno, allora, sul fabbisogno di specialisti, ci sono delle aree dove non si trovano specialisti, la cardiologia, la psichiatria, non ci sono specialisti, appena laureati trovano anche posto, però non vengono assunti intanto in maniera, vengono sempre tenuti con contratti precari per molto tempo e lavorano tantissimo, però non c'è un calcolo a livello regionale, ora i sistemi sanitari sono regionali, il sistema di ingresso in specialità l'hanno reso un po' come quello degli Stati Uniti, un sistema nazionale, per cui uno può capitare che fa la medicina, che so, a Verona e viene spedito a Messina, per dire, o viceversa, e magari non in una specialità che desiderava fare. Voleva Senta, fare Giulia, psichiatria, ma... fa psichiatria, certo. Perché c'è un matching program che è stato copiato dagli Stati Uniti, ma dove può funzionare benissimo, ma si sa che le due realtà sono molto diverse, per cui ragazzi e persone molto motivate a fare una specialità si trovano esclusi. Senta Giulia, lei ha parlato di fabbisogno, ha parlato di fabbisogno, quindi scusi Giulia, ci lasci fare una domanda, lei che è dottore già da un po' e si occupa di formazione, e lei ha parlato di fabbisogno che non viene calcolato, cioè, noi abbiamo calcolato che tra il 2017 e il 2023 ci sarà un pensionamento generale di medici, calcolando tutte le tipologie, diciamo gli ospedalieri, gli universitari, quelli che fanno la professione privata, di 88.000 unità. Certo. Questo fa pensare che a un certo punto avremo bisogno di medici, ci aumenterà ancora di più la richiesta di... Ma sì, ma allora il medico, ormai non esiste più un medico generico, esistono i medici specialisti, per cui quando si calcola il fabbisogno non bisogna calcolare il numero di medici che serve, ma di specialisti già. Perché nessuno fa medicina, certo, per poi non fare la specialità. E quindi se uno sa già in partenza che fare la specialità che desidera, so, fare la chirurgia, è praticamente un terno all'otto, non sa dove la farà, con chi la farà, si è spezzato quel legame di fiducia che si veniva a instaurare fra lo studente che si stava per laureare e la scuola e la sua realtà universitaria, per cui il sistema può avere dei vantaggi, ma a mio avviso sta dimostrando soltanto di avere degli svantaggi. Il nuovo sistema per entrare nelle scuole di specialità. Grazie, grazie alla dottoressa. Da dove ci ha chiamato? Da dove ci ha chiamato? Da Treviso. Da Treviso, grazie prego, naturalmente, per questo ulteriore contributo a comprendere il problema che stiamo prendendo in esame. Professor Davide Ferrara, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. È preside della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. Ha sentito questi due interventi di ascoltatore che l'hanno preceduta e fanno pensare decisamente. Adesso, al di là della flessione nel numero degli iscritti, al di là del fatto che forse il numero di medici è superiore a quello che servirebbe dal punto di vista generale, anche lei trova uno scollamento tra le richieste specialistiche e di specialisti e quello che invece a un certo punto sforneremo dalle scuole di formazione di specialità? Guardi, assolutamente sì, e sono del tutto d'accordo con i giovani colleghi che sono intervenuti in trasmissione poc'anzi. Noi come presidi nel novero della conferenza nazionale che ci vede riuniti mensilmente più volte abbiamo rappresentato ai ministri di competenza, ovvero al ministro dell'università e al ministro della salute, i problemi che vanno manifestandosi in ordine a questo scollamento, così come lei ha inteso chiamarlo, fra... Vabbè, lei come lo chiamerebbe, scusi? Possiamo proporre anche un'altra definizione, per non dire quel matching in inglese che veniva, certo, proposto prima, chiamiamolo per capirci, no? Sì, ma infatti è una efficace definizione che meglio definisce rispetto a tanti altri termini. Quindi questo scollamento è denunciato da tempo dalla nostra conferenza nazionale e devo dirle che l'aumento progressivo rispetto a quanto era stato programmato anche nel corso dell'ultimo anno è la risultante dell'impegno dei vari presidi e dei docenti delle scuole di medicina. Tuttavia esiste una sproporzione fra numero di laureati e numerosità di contratti di formazione, altrimenti detti borse di studio di frequenza presso le scuole di specializzazione. Così come è stato rappresentato ai giovani colleghi che sono intervenuti prima, una buona parte dei colleghi laureati in medicina non riesce ad entrare nelle scuole di specializzazione ed è costretta ad andare all'estero perché nel nostro paese, come in tutti i paesi dell'Unione Europea, non si può esercitare se non si è conseguito il diploma di specializzazione e pertanto i nostri ottimi laureati, molto apprezzati all'estero, vengono assorbiti dai sistemi sanitari di altri paesi a costo zero. A costo zero perché sono stati formati in Italia e l'investimento è stato fatto dall'Italia. Sa quanti sono quelli che hanno lasciato il paese nel 2014 con la laurea in tasca? In occasione di una riunione che è stata promossa dalla Conferenza Nazionale dei Presidi presso il Senato, che si è svolta circa un mese e mezzo fa, alla presenza anche dei ministri prima citati, sono stati esposti i dati, i quali testimoniano non con esattezza. Veniamo al numero, quali sono i numeri che avete? Dal 5 al 10%, questa è la variazione, rispetto al numero dei laureati, in quanto queste valutazioni possono essere fatte ex post, ovvero solo dopo che siano trascorsi 2 anni di verifica. Professore, la blocco un attimo perché dobbiamo andare a controllare la situazione del traffico, ma è molto importante quello che lei ha segnalato. 90.000 italiani che hanno lasciato il paese nel 2014, secondo Style del Corriere della Sera, con la laurea in tasca, appena laureati, formati dal sistema italiano e che all'estero trovano subito la possibilità di inserirsi, lavorare, essere apprezzati e valorizzati. Torniamo tra poco, noi prima andiamo a controllare la situazione sulle strade italiane. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ed esiste perfino la pagina Doctors in Fuga, questa pagina Facebook, e viene presa non solo in considerazione ma molto spesso così come unica via, quella della fuga all'estero per godere di migliori opportunità di lavoro sia in termini di qualifiche sia di stipendio, perché non è solo il problema del salario. Poi ci sono alcuni che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 dicendo: carissimi medici, non fate le vittime, 1400 euro sono decisamente tanti per imparare. Ci sono anziani medici che dicono: noi non venivamo nemmeno pagati durante la formazione. Quindi come ogni argomento ha diverse sfumature che diverse parti ritengono opportuno mettere in luce, diciamo così. Ci interessa molto però come sistema Italia, come sistema di pazienti e di potenziali pazienti in futuro, affrontare il tema dello scollamento e capire se ci sarà un problema di carenza, visto che dal 2017 al 2023 saranno addirittura 88.000 i medici che raggiungeranno l'età pensionabile. E continueremo a parlarne con i nostri ospiti tra poco. Prima sentiamo anche voi all'800 24 00 24. Questo è il numero per intervenire in diretta. Pierluigi, buongiorno, pronto? Buongiorno. Devo essere veloce perché sto per timbrare. Allora, io sono un medico di 50 anni in Regione Piemonte che è andato a posto dopo anni di contratti a incarico a tempo determinato in giro per il Nord Italia. Allora, mi sembrano passi in termini segmentali quelle che cui parla il preside di medicina di Padova, perché fa parte anche lui del sistema, e mi dispiace che ex colleghi dicano certe cose. Allora, ecco, glielo dico subito. Sì. Tempo prima delle scuole di specialità a sì. numero chiuso, già al primo o secondo anno di specialità si guadagnava e si vincevano degli incarichi. Ora la situazione è molto complessa. Gli stipendi di un medico italiano sono quelli di un medico di fra i 5 e i 10 anni di anzianità di un operaio specializzato della Volkswagen a Wolfsburg. Il carico di cioè lavoro quanto? Scusi. 2000, sotto i 5 anni siamo mediamente sui 2003-2005 di stipendio. Un operaio della Wolfsburg prende questo, se non di più. Sì, sì. Anch'io ho amici che a 50 anni hanno preso moglie e figli e sono andati a lavorare all'estero, ma per il carico di lavoro impressionante, perché non ci sono concorsi, non ci sono assunzioni, non c'è programmazione. Non c'è una programmazione politica, l'ha denunciato il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma qualche settimana fa in televisione. C'è una miopia politica. Per formare un medico ci vogliono 10-11 anni, come diceva lo specializzando di prima. Sì. E non lo si vuole fare perché c'è un solo motivo: si vuole portare l'Italia verso un sistema di tipo privatistico, ma dato che l'Italia non ha non è come la Svizzera o come gli Stati Uniti, a me può anche andare bene un sistema con assicurazioni, ma si sta semplicemente copiando, come è stato fatto per le scuole di specialità, un qualcosa dall'estero senza andare a fondo del problema. Per non e ha fatto bene lei a sollevare questo allarme, perché credo che gli italiani tutti siano molto affezionati al sistema della sanità universale, e quindi è importante, se ci sono meccanismi che lo danneggiano alla base, proprio a partire dalle scuole di specialità di medicina, che vengano segnalati, così che si possa anche insistere, come si fa, visto che si copia tutto dall'estero. All'estero si scrive ai propri rappresentanti politici in continuazione, si fa pressione perché una cosa non avvenga. Dottore, grazie perché è stato un intervento importante, anche quello del medico che ci chiamava, mi dicono dalla regia, dalla provincia di Asti. Domenico Montemurro, buongiorno, benvenuto. Grazie. E Domenico Montemurro a sua volta conosce bene la situazione, perché è responsabile della ANAU, cioè dei giovani Assomed, ANAU con diverse A, Associazione dei Medici Dirigenti. Parliamo dei giovani in questo caso. Ora, alcuni degli aspetti sono stati tracciati, degli aspetti più critici. Secondo lei, perché c'è questo calo delle iscrizioni ai test di medicina? Parliamo di un calo del 28% rispetto al 2013, se dobbiamo dare una percentuale. È l'attività di medico che non attira più, quando abbiamo sentito tanti che scelgono questo tipo di carriera e anche di percorso di studio sono fortemente motivati, l'avevano già deciso da piccoli, è un po' il loro sogno, sono anche in tanti casi molto idealisti. Cos'è che scoraggia? Ma allora, innanzitutto correggiamo un po' i numeri. L'anno scorso erano oltre 80.000 che provavano al concorso nazionale, quest'anno sono stati circa 60.639. Esatto, quindi c'è stato un calo d'appeal molto molto forte. È chiaro che ci si muove in più aspetti. Perché c'è questo calo di appeal? Perché i giovani non vedono un futuro, e non vedono un futuro perché esiste proprio uno scollamento tra la laurea, quindi nel momento in cui si esce dal percorso formativo di laurea, è il numero di contratti di formazione specialistica. È questo lo scollamento, il cosiddetto imbuto formativo. Cioè uno su due, uno su tre ce la fa. Poi c'è anche un fattore economico. Con questa crisi economica il concorso nazionale sicuramente di per sé positivo ha creato delle, chiamiamole così, disuguaglianze. Perché nel momento in cui chi può permettersi la scuola di medicina viene può farla anche a Catania, può farla anche a Catanzaro, può farla a Palermo, dove vuole, voglio dire. Chi non può permetterselo non può fare la scuola di medicina. Poi c'è una spinta certamente ad emigrare all'estero, ma perché è l'Europa che poi alla fine ci chiama, perché l'Europa anch'essa... Dottor Montemurro, attenda, aspetti prima di esplorare anche questo tema, certo, dell'Europa, perché purtroppo questi sono i tempi radiofonici, torneremo a parlarne tra poco, non è terminata la trasmissione, ma prima c'è l'aggiornamento delle GR, poi le conclusioni con lei e con i nostri ascoltatori. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ritorniamo 9.06, ancora buongiorno da Irene Zerbini, a parlare dei test di medicina. Sono in calo gli iscritti, decisamente in calo, e ci siamo chiesti perché. E è emersa una fotografia non solo della professione, ma dell'ingresso alla professione, dell'avvio alla professione da medico, decisamente scoraggiante per chi deve affrontare, e ce l'hanno raccontato gli specializzandi che ci hanno chiamato, 11 anni di formazione per poi avere dei contratti. A quanto al mese esattamente, le cifre che sono state raccontate sono, si aggirano intorno ai 1300-1400. C'è questa situazione a fronte di un carico di lavoro che a volte rasenta le 60 ore settimanali, e ci sono tantissimi che scrivono: ah, questi medici hanno perso i privilegi e adesso si lamentano, perché parlare di loro, hanno sempre avuto una posizione, uno status da privilegiati, e ora è giusto che, come dire, paghino lo scotto. Questo per sintetizzare un po' il tenore dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. C'è poi chi dice: io sono laureato in ingegneria, prendo 3.500 euro netti al mese, rispetto ai colleghi tedeschi è comunque poco, Roberto. E c'è chi invita a osservare anche gli altri ricercatori, ma di questo abbiamo parlato in altre trasmissioni. Oggi siamo partiti da questo esempio, da questa realtà. Domenico Montemurro, lei che è responsabile dell'associazione appunto dei medici dirigenti, ci stava dicendo cosa scoraggia riguardo al monte ore, al carico di lavoro. Ha sentito anche dal tono degli ascoltatori, pochi sanno cosa fa un medico in corsia oggi, soprattutto in pronto soccorso, con, ce lo può raccontare? Ma un medico oggi fa tutto, cioè un medico che è in pronto soccorso, un medico che in un reparto deve curare i pazienti, non è certamente un medico che purtroppo, devo dire la verità, ha un, tra virgolette, monte ore, perché è certo che ce l'ha un monte ore, però è chiaro che la salute dei pazienti viene prima. È ovvio che non bisogna sforare questo monte ore, perché se si sfora questo monte ore della salute psicofisica del medico stesso, voglio dire, è chiaro che questo non è corrisposto ad uno stipendio adeguato nel momento in cui c'è un blocco da almeno 6 anni dei contratti, per cui non mi piace neanche pensare all'idea che siamo una categoria privilegiata nel momento in cui continuiamo a essere denunciati, e questo Ferraro lo sa benissimo, inutilmente molto spesso, e questo i cittadini finalmente hanno compreso, che non è dovuto sicuramente ad una cattiva qualità del sistema sanitario nazionale, quanto a un taglio continuo delle spese sul sistema sanitario nazionale, che viene fatto ogni giorno. Quando si parla di scollamento, ci saranno 88.000 pensionamenti dal 2017 al 2023, è a rischio proprio, diciamo così, il fabbisogno di medici che la popolazione avrà? Allora, noi ci muoviamo tra una carenza di specialisti, tra disoccupati che a breve termine, entro il 2023, saranno oltre 20.000, cioè disoccupati vuol dire senza una specializzazione, e tra pletora medica, cioè tra un alto numero di laureati specialisti e non. Quindi ci muoviamo, ed è questo il cosiddetto scollamento, ci muoviamo in questa zona paludosa che è frutto di una cattiva programmazione. Avremo a fronte di 88.000-90.000 medici con una punta tra il 2017 e il 2023, circa 80.000 nuovi medici che verranno sfornati tra il 2014 e il 2023. Quindi si va a un saldo negativo, ma a un saldo negativo falso, perché da una parte avremo una carenza di specialisti che non viene colmata nell'immediato, e dall'altra parte avremo un numero di disoccupati notevolissimo, e questo può essere contrastato solo, e l'abbiamo detto più volte come associazione, con un riduzione del numero d'accesso alla scuola di medicina e chirurgia e con un aumento immediato del numero di contratti di formazione specialistica. È molto, molto chiaro, è l'unica strada, lei dice, per riempire questo gap. Grazie a Domenico Montemurro, responsabile dell'Associazione dei Medici Dirigenti. Francesco Ferrante, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto grazie per aver atteso, ha sentito quanto fa dibattere questo tema. Noi con lei, che è di Alma Laurea, è componente del Comitato Scientifico di Alma Laurea, vorremmo concludere coi numeri. Siamo partiti da questa crisi del sogno del medico e da questo calo degli iscritti ai test d'ingresso per medicina. Rimane comunque medicina in testa alle scelte dei giovani che hanno una maturità? Cosa dicono i numeri? I numeri ci dicono che sicuramente i laureati in medicina sono quelli che poi nel mondo del lavoro trovano maggiore soddisfazione in termini retributivi e di tasso di occupazione. Occupabilità più alta. E quindi occupabilità più alta, 5 anni. Chiaramente tutto ciò è relativo agli altri laureati, quindi comprendo anche i motivi di insoddisfazione che sono emersi dal confronto di questa mattina, che mi sembra abbia fotografato in maniera molto efficace quella che è la situazione. Quindi se noi confrontiamo il laureato in medicina con gli altri laureati, il quadro è direi positivo in termini di retribuzioni, parliamo di circa 1.800 euro mensili netti al mese a 5 anni dalla laurea. Parliamo di tasso di occupazione del 95% a 5 anni dalla laurea, parliamo di tasso di disoccupazione molto basso. Evidentemente però dietro a questi numeri, come si è visto, ci sono anche delle ombre che riguardano l'incertezza che incontrano questi giovani che intraprendono un percorso che spesso poi si chiude per assenza di prospettive nell'ambito della specializzazione. Un'incertezza che sicuramente ha inciso, anche incide sulle decisioni poi di iscriversi al test. Oltre all'incertezza c'è la lunga durata del percorso, che differenzia evidentemente questo tipo di laurea rispetto alle altre lauree, e quindi anche va a incidere su quello che è il rendimento di questo investimento fatto dai laureati. Perché non dimentichiamo che ciò che poi va a incidere dal punto di vista economico sulla scelta di iscriversi in un diritto piuttosto che un altro è quello che è il rapporto tra benefici e costi di questa scelta. Quindi anche se le retribuzioni sono più elevate, ciò che conta è il rapporto tra queste retribuzioni e il costo che i giovani hanno sostenuto in termini di durata degli studi e di costo opportunità di questi studi, perché chi studia evidentemente rinunzia a un reddito che potrebbe ricavare andando a lavorare sul mercato del lavoro. Senta, riguardo ai dati che vedono l'85% dei ricercatori italiani con la valigia in mano, addirittura 90.000 italiani che hanno lasciato il paese nel 2014 con la laurea in tasca, questo è bilanciato da un ingresso, come dire, di cervelli in Italia equivalente? Assolutamente no, e questo è l'aspetto negativo della storia, perché la circolazione di cervelli è un fatto di positivo ed è quello che succede, quella che si verifica negli altri paesi avanzati. Ciò che ci caratterizza in negativo come paese è che il nostro è un flusso unidirezionale, noi non riceviamo laureati dall'estero, e questo non riguarda solo i medici, riguarda anche altri laureati in ingegneria, e spesso si lamenta da parte anche delle imprese un'assenza di laureati ad esempio in ingegneria informatica, ma se noi andiamo a guardare i dati possiamo verificare che noi esportiamo molti laureati in ingegneria informatica. Allora c'è da porsi una domanda: come mai tutti questi giovani di cui noi avremmo bisogno, che abbiamo formato sostenendo elevati costi come collettività, vanno a lavorare all'estero? E che risposta si è dato lei? La risposta che do io è che il nostro è un paese, ahimè, che continua a sottovalutare l'importanza dell'investimento in capitale umano, soprattutto del capitale umano ad elevata formazione. Penso ai dottorati, penso ai medici specializzati. Ancora è un paese che ha difficoltà ad offrire a questi giovani opportunità non solo retributive, come lei giustamente ha detto prima, ma anche di realizzazione professionale nel mercato del lavoro. Di ricerca, di valorizzazione, perché se entri in una struttura e poi devi solo fare le fotocopie, adesso questo per semplificare, non succede ai medici, ma comunque devi sempre aspettare che l'anziano davanti a te vada in pensione prima che tu possa avere un'efficacia decisionale, che tu sia medico o laureato d'altro tipo, anche questo è altrettanto frustrante, anche ricevessi un salario decisamente superiore a quello che erogano oggi. Lei è riuscito con una sintesi a darci una fotografia della situazione. Non si valuta abbastanza quello che è il capitale umano, soprattutto ad alta formazione. Francesco Ferrante, grazie per il suo tempo. Arrivederci. Francesco Ferrante è componente del comitato scientifico di Alma Laurea. Ringraziamo anche il professor Santo Davide Ferrara, che è stato nostro ospite, il preside della scuola di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, e Domenico Montemuro, responsabile ANAO dei giovani Assomed. Continuate con le vostre osservazioni, scrivetecele a spuntidivista@radio24.it o sulla pagina Facebook di Spunti di Vista, perché è arrivato il momento di cambiare pagina. Nelle società patriarcali, sin dai tempi più remoti, quando nasce una bambina, la sua nascita non viene festeggiata. Non viene accolta né dal padre né dalla madre. Vengono i vicini, si rammaricano per la madre e nessuno si congratula col padre. E una madre si sente molto a disagio per aver avuto una bambina. Quando una madre dà alla luce la sua prima bambina, la sua primogenita, si sente triste. Quando dà alla luce la secondogenita, è scioccata. E in attesa di un maschio, quando dà alla luce una terza bambina, si sente colpevole come se fosse una criminale. Cari fratelli e sorelle, quando Malala è nata e l'ho guardata negli occhi, credetemi, mi sono sentito estremamente onorato. Qualche giorno dopo la nascita di Malala, è venuto mio cugino a casa mia e ha portato un albero genealogico della famiglia Yousafzai, che raccontava gli ultimi 300 anni della mia famiglia. Quando l'ho letto, ho visto che i miei antenati erano solamente maschi. Così ho preso la penna, ho tracciato una linea dal mio stesso nome e ho scritto Malala. Drew a line from my name and wrote Malala. Beh, veramente da brivido questo discorso del padre di Malala Yousafzai, e parlava a TED in questo caso, l'abbiamo tradotto, e abbiamo saputo in questi giorni proprio che due guardie armate dovranno stare al fianco di Malala 24 ore su 24, cioè della diciottenne, adesso ha 18 anni, che è stata la più giovane Nobel, la più giovane mai insignita del premio Nobel per la pace, aveva 14 anni quando lo ricevette nel 2012, quando un comando di Taliban provò a ucciderla mentre era a bordo di uno scuolabus nel nord Waziristan, cioè in Pakistan. Perché? Perché era stata presa di mira a causa del suo impegno a favore dell'educazione femminile. Poi fu trasferita in Gran Bretagna, adesso studia lì e ha appena conseguito l'equivalente della maturità italiana, diciamo così, insomma. E il padre ha twittato tutti i suoi voti, che sono tutti A più A, cioè 10 lode per tracciare un parallelo con il sistema italiano. Ed è molto importante la lotta per l'accesso, per il diritto all'istruzione di Malala. E questo ci porta a parlare della situazione femminile nelle comunità musulmane, che sono numerosissime in Italia, eppure a volte viviamo gomito a gomito senza conoscerci. Uno degli argomenti, se vogliamo, dei simboli più indecifrabili per un occidentale è quello del velo. Il velo, infatti, che si manifesta in diverse modalità, è qualcosa sulla quale quale ancora ci si divide, si litiga, viene visto o come uno strumento di repressione della donna o come un problema da eliminare, un problema di sicurezza in alcuni casi, e a volte invece si scopre è semplicemente una libera scelta quella di indossare un velo. Ma non vogliamo noi chiaramente parlare di questa realtà, ma semplicemente sentire da chi lo indossa, da chi lo conosce, da chi ci può aiutare a decifrare questo importantissimo elemento di divisione, come dovremmo leggerlo. E do il buongiorno a Abdelkader Soumaya. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Abdelkader Soumaya è una scrittrice, è diventata famosa nel 2008 proprio con un libro dal titolo Porto il velo, adoro i Queen. Perché proprio i Queen? No, non glielo chiediamo. Ma perché ha sentito l'esigenza Abdelkader di scrivere questo libro? Beh, rispondo subito sui Queen perché mi piacciono. Mentre per quanto riguarda il libro, beh, diciamo che è stata la voglia di raccontare da un punto di vista personale quelle che sono le vite quotidiane delle donne musulmane, in particolar modo di giovani donne musulmane che vivono, nascono e crescono in Italia e che sono poco conosciute. Di solito le donne musulmane sono conosciute attraverso la cronaca nera oppure i racconti, le narrazioni che ci arrivano dai contesti internazionali. Ecco, questo che solitamente è sempre dipinto di nero e comunque di negatività, c'era la voglia di invece far emergere la faccia quotidiana, la faccia normale e positiva dell'essere donna musulmana. E lei chissà quante volte, immagino, si è sentita chiedere perché porta il velo, e anche in maniera, come dire, benevola, proprio mossa da una curiosità su un oggetto d'abbigliamento che in Occidente si conosce poco. Cosa risponde in genere a questa domanda? Sì, una domanda che mi viene fatta molto spesso e direi quasi sempre in senso positivo, cioè c'è la curiosità di sapere perché una donna sceglie di portare il velo, specie in un contesto come quello occidentale dove la donna ha fatto altre lotte per raggiungere magari altri obiettivi rispetto a quello che è la libertà di vestirsi ed esprimersi, eccetera. Ecco, portare il velo innanzitutto quando è una scelta, perché deve essere una scelta, laddove è un'imposizione non è più portare il velo ma diventa oppressione, diventa altro. Quando è una scelta di una donna, la scelta è un segno di devozione, una forma di devozione a Dio, una forma di adorazione di Dio, perché quando noi leggiamo nel Corano che Dio chiede alle donne di calare i veli, di coprire i propri corpi, noi lo interpretiamo come un atto d'amore verso Dio. Ecco. Ma pronto? Sì. Abdel, a Corsico qualche giorno fa si è presentata una donna coperta con il burqa addirittura, e quindi gli è stato chiesto dal vice sindaco di Corsico, che a sua volta è una donna, Flavia Perrotta, di allontanarsi o di, insomma, scoprirsi in qualche modo, perché questo è richiesto dalla legge 152 del 22 maggio del 75, cioè dell'avere il volto scoperto, e lei ha preferito, questa signora, non si è instaurato nessun tipo di alterco né di tensione, allontanarsi. Quando voi parlate di velo, quando lei parla di velo, include anche il burqa? Tendenzialmente io parlo di hijab, quello che copre la testa e il corpo, che lascia libero il volto, le mani e i piedi. L'altro immagino che si intendesse il niqab, quello che porta la signora di Corsico, e non il burqa, che in Italia non se ne sono mai visti. Non si trova. Sì, il niqab diciamo che è una forma, è un'altra forma di hijab che alcune donne scelgono di portare, a volte scelgono, a volte gli viene imposto, questo lo ribadiamo e condanniamo sempre le imposizioni, però è un'altra forma di devozione, se vogliamo, che però non è nella lettura maggioritaria dei musulmani un obbligo, la copertura del volto. Certamente quella legge che ha citato è una legge che spesso viene un po' forzata, interpretata come il divieto di portare questo niqab. In realtà non tutti lo interpretano in questo modo. Senz'altro in Italia, laddove ci sia la necessità di identificare una persona per qualsiasi motivo di sicurezza, questa persona deve permettere alle autorità competenti di farsi identificare. Abdel, noi ora sentiamo anche il parere di qualcuno che in Italia è stato il primo assessore marocchino eletto con nome e cognome. Youssef Salmi del comune di Novellara, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Lei era assessore, Youssef, all'associazionismo, al volontariato e ai giovani. Oggi è titolare di un caffè, la Fenice Bagnolo al Piano, e ci interessava capire, visto che è stato detto molto chiaramente dalla scrittrice nostra ospite, che viene approvato l'hijab, diciamo, solo quando è una scelta della donna e non quando è un'imposizione. Lei ha delle figlie femmine nate e cresciute in Italia, che scelta hanno fatto le sue ragazze? La mia ragazza, io ho una figlia di, ha fatto 18 anni in luglio, e un ragazzino che ha 10 anni. A mia figlia e ai miei figli non ho imposto niente. Io ho espresso la mia cultura con il mio modo e uso quotidiano e ho cercato di insegnare ai miei figli il valore del rispetto reciproco, il valore del rispetto alla persona che ha davanti. Poi l'usanza, il costume è una scelta che faranno, che farà lei, che faranno loro. In questo momento mia figlia non porta niente, non è né battezzata, non fa neanche il Ramadan, per dire. Sceglierà lei quando ora, quando vuole, perché deve essere una scelta della persona, non una cosa imposta. Questo è il mio parere riguardo questa cosa qua. Voglio solo sottolineare una cosa: io ero amministratore a Novellara, ma risiedo a Campagnola Emilia, che è un comune vicino a Novellara. Solo una sottolineatura, perché sennò qualcuno di Campagnola dice: ma tu non dici mai che abiti lì, invece io abito a Campagnola Emilia. E lei è stato votato con tanto di nome e cognome, no? Questo lo precisiamo, nel senso che sì, è stata un'elezione con preferenza la sua, quindi ha avuto anche molto consenso, e spesso si è occupato di progetti nelle scuole, ha avuto a che fare con una popolazione decisamente multietnica come quella della vostra zona, e c'è stato a volte la necessità, non so, di spiegare perché era necessario che si mantenesse il velo sulle studentesse nelle scuole. Ci sono state tensioni, questa presenza forte, consistente della comunità musulmana intorno a Novellara, come è stata vissuta anche a livello scolastico, visto che lei si occupava proprio dei ragazzi? Ma guardi, io, quello che abbiamo vissuto noi, la nostra fortuna è che siamo stati sempre protagonisti nell'agire, abbiamo sempre interagito grazie alla costruzione dell'associazione, la fondazione dell'associazione araba di cultura e solidarietà. Abbiamo fatto tantissimi incontri culturali, parlo già del 99-2000, per spiegare un po' la cultura dell'altro, perché lo slogan dell'associazione era e lo è ancora la conoscenza e il rispetto reciproco sono la base della convivenza. Su queste cose qua in particolare abbiamo investito molto, abbiamo avuto la fortuna di conoscere un docente universitario e laureato all'Università dell'Azhar che si chiama Mahmoud Salimi Sheikh, che abbiamo coinvolto in vari percorsi, abbiamo fatto un percorso di incontri letterari sulla cultura dell'altro, sul conoscere chi è l'altro, e nello stesso tempo iniziative che fanno conoscere all'immigrato il valore della Costituzione italiana, che è una Costituzione laica che permette a noi, a tutte le etnie che ci sono, di poter convivere in questo paese rispettando praticamente le leggi dello Stato. E questo secondo me è una cosa fondamentale. Noi abbiamo agito, abbiamo interagito. Quando parlo di convivenza, integrazione, non mi piace usare la parola integrazione, tolgo sempre la G del ghetto e metto interazione, perché per me in questo momento è fondamentale interagire, fondamentale conoscersi. E il protagonismo soggettivo degli immigrati oggi più che mai è importante. Mi fa piacere sentire parlare la Sumia, che ha parlato prima di me. Cioè, sono quelle le persone che potrebbero dare una svolta a una realtà, perché spesso prevale il pregiudizio. Il pregiudizio frutta quella ignoranza, che a volte porta anche a quella cosa estrema che si chiama razzismo. Io quello che penso qua in Italia, c'è bisogno di più conoscenza, c'è bisogno di più tempo da passare insieme, cercare di creare dei momenti dove si convive, dove si conosce, perché questo aiuterà a accendere quella luce che crea buio, che poi spaventa chi non conosce, chi non vede. questo secondo me è una cosa importante. Ci sono anche delle persone che segnalano come questo tipo di argomentazioni, penso si riferissero alle argomentazioni della scrittrice nostra ospite Abdelkader Soumaya, in realtà sono le cose che diceva anche l'italiana convertita che ora in Siria, quindi si sente questa vis, come dire, polemica molto accesa da parte di una fetta degli ascoltatori che sostengono attenzione, perché questo tipo di integrazione, di comprensione e multiculturalismo ha prodotto e produce i foreign fighters. Paola Caridi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Paola Caridi è una giornalista, è una storica e ha vissuto per tantissimi anni in Medio Oriente, nel mondo arabo, prima al Cairo, poi a Gerusalemme, e ora è collaboratrice del Sole 24 Ore, dell'Espresso, e per Feltrinelli ha pubblicato Arabi Invisibili, poi altri libri come Hamas e Gerusalemme senza Dio, ma soprattutto in Arabi Invisibili, Paola, tu hai affrontato il tema del velo. Ora ci diceva l'assessore marocchino, c'è ancora molto pregiudizio, ci diceva la scrittrice Abdelkader Soumaya come sia necessario appunto che questo velo sia il frutto di una scelta della donna e non solo dell'imposizione. E infatti forse quello che ha fatto un po' tremare le convinzioni occidentali è stato scoprire che a indossare il velo sono anche donne che hanno un'istruzione, che hanno un ruolo addirittura da femminista nelle rispettive società. È così? Ma intanto io sottolineerei che questa distanza fra noi occidentali e il velo non c'è. Soumaya, la scrittrice che ha parlato prima, che peraltro ha pubblicato il suo libro su Pregiuno lo stesso periodo in cui io ho pubblicato Arabi Invisibili, cioè sono passati molti anni, 2007-2008, Soumaya parlava del velo come devozione a Dio. Ora, se solamente noi pensiamo alla nostra storia di italiane, quale velo conosciamo di devozione? Quello delle suore. Oh, allora, pensare che ci sia un mondo altro di cui noi non conosciamo nulla o non condividiamo nulla mi sembra veramente una forzatura che va sulla falsa riga di quello che diceva l'ascoltatrice o l'ascoltatore sui foreign fighters e sull'italiana convertita. Sì. È una forzatura perché si basa sulla non conoscenza, sull'ignoranza, oppure, ancor peggio, sulla dimenticanza della nostra identità, non dell'identità altrui, ma della nostra identità. Paola, ti interrompo un istante perché il tema dell'identità merita di essere approfondito con i tempi dovuti. Un'interruzione per la pubblicità e ritorniamo con te. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Fine di novembre del 2003, alla conclusione del Ramadan, quando Khadija Ben Ganna si è inaspettatamente presentata con il capo velato da un foulard color salmone. È successo ad Al Jazeera, questa era una delle conduttrici più famose, è stato uno shock per i telespettatori, per i quali la giornalista algerina aveva rappresentato il mito dell'anchor woman in versione araba. E quindi questo ci racconta Paola Caridi, non ha tolto nulla alla sua professionalità, ma ha fatto discutere. Oggi ci stiamo chiedendo, stiamo cercando di capire perché anche oggi che molte donne indossano le hijab anche nelle strade italiane, ancora oggi ci ritroviamo nel 2015 a parlare, a non capire, a doversi spiegare anche sull'ABC. E Paola Caridi, tu ci dicevi bisognerebbe andare, come dire, oltre gli steccati e cercare di capire anche i punti in comune con, ci stavi raccontando, con il velo religioso delle religiose cattoliche, cioè delle suore. Ma è solo un esempio che faccio, per esempio le mie vicine ebree, israeliane ebree a Gerusalemme per 10 anni indossavano il velo, non ci siamo mai stupiti per questo tipo di velo un po' diverso che era fatto come un cappello talvolta o come una parrucca sotto la quale c'erano i capelli rasati, di questo non ci siamo mai fatti un problema. Allora io ho l'impressione che il velo sia diventato, e credo che Soumaya su questo mi darà ragione, come una sorta di a volte segno, a volte simbolo, a volte bersaglio di qualcosa d'altro. E ed è un velo che copre la nostra ignoranza su, in questo caso sul mondo musulmano più vicino a noi, che è quello arabo lungo il Mediterraneo. Non parliamo di Malala, che è molto più lontana dal punto di vista geografico, o era molto più lontana dal punto di vista geografico, adesso è in Europa. Questo velo copre altro, ed è quello che mi è sempre dispiaciuto in questi anni, cioè che ci siamo concentrate per l'ennesima volta su un segno della donna senza guardare a quello che la donna come dire, deve patire in altre cose, che non è il velo, perché se il velo è scelto non deve patire nulla, se il velo è imposto sì. Ma ci siamo mai interessate dei come dire, della, del ruolo sociale delle donne? Ci siamo mai interessate dell'eredità nei codici civili dei differenti paesi, che sono differenti a seconda dei paesi, nonostante vi sia sempre almeno un pezzo di sharia dentro le legislazioni? Ci siamo mai occupate del tetto di cristallo che viviamo noi in Europa, ma che vivono anche loro, quindi quello di una carriera all'interno delle aziende, all'interno delle università, all'interno di qualsiasi struttura pubblica, per esempio? Allora, di questo non ci siamo mai interessate, ci siamo fondate sul velo, perché questo ci ha salvato anche da quello sforzo necessario di entrare dentro le scarpe degli altri, direbbero gli inglesi, cioè di entrare dentro la vita degli altri. Allora scopriremmo alcune cose, scopriremmo che la forza delle donne arabe, parlo delle donne arabe sia musulmane sia cristiane, non passa attraverso dei segni esteriori, ma passa attraverso il loro carattere, passa attraverso le famiglie, se sono patriarcali, tradizionali o meno, e soprattutto passa attraverso la tradizione, il conformismo, non passa attraverso la religione o le religioni. E questo noi abbiamo tentato di confonderlo, noi occidentali abbiamo tentato di confonderlo, perché vi erano delle ragioni geopolitiche, strategiche, di fronteggiamento, se si vuole, di confronto fra di noi. Ma questo ha, non solo è miope, ma dal punto di vista della vita futura, della vita dei nostri figli, eccetera, non è che migliorerà le cose, e non è che ci farà vincere, tanto per essere molto tranchant, non ci farà vincere per niente, peggiorerà solamente la situazione. Quando si mette insieme Malala e l'educazione, e io sono una che sostiene per esempio il Malala Fund personalmente, Malala portava il velo, Malala credo che ancora porti il velo. Ancora porta il velo, sì. Oh, ed è la paladina dell'istruzione, diciamo, appunto, così, delle ragazze. E per questo l'abbiamo proposta in apertura di trasmissione. Tra poco parleremo del ruolo centrale, Paola, dell'istruzione e anche della fatica dell'andare a scuola, delle difficoltà che bisogna affrontare per conseguirlo, questo elemento che nelle società occidentali invece noi diamo per scontato. È uno sforzo quello di stamattina, appunto, per comprendere, per conoscersi a vicenda. Sentiamo cosa hanno da dire anche gli ascoltatori. Andiamo a Como, dove c'è Caterina. Buongiorno Caterina. Buongiorno. Pronto? Io ho ascoltato adesso la signora in diretta, mi sembra che abbia detto delle cose giustissime, però si trascura troppo il fatto che loro devono anche cercare di capire noi, cosa che non fanno. Loro chi, scusi? Loro, gli arabi, queste persone che arrivano, che portano il velo, sì e no. Le racconto una cosa. Un giorno ero in un ospedale e c'era questa signora che si vedevano solo gli occhi. Gli ho tirato quell'affare barbetta lì e gli ho detto: ma perché non se la toglie? L'uomo che c'era con lei mi ha detto: bisogna chiederlo al marito. Ho capito, cioè, e noi è stato sottolineato, infatti Caterina, grazie innanzitutto per averci raccontato questo episodio anche nell'ospedale, grazie per aver fatto una domanda, perché penso sia legittimo fare domande anche alla signora che invece aveva il volto completamente coperto, anche se forse è stato vissuto un po' in maniera aggressiva, però la risposta è stata del tipo, di quelle che non vorremmo mai sentire, cioè del tipo: bisogna chiederlo al marito. E questo ci riporta alla questione sottolineata anche sia da Sumaya che dalla scrittrice Paola Caridi. Ovviamente c'è una condanna quando il velo è un'imposizione anche da parte delle altre donne musulmane, ma spesso, e questo è già forse più meno conosciuto e più difficile da accettare, spesso è una scelta. Roberto, buongiorno, benvenuto. Da dove chiama Roberto? Chiamo da Parma, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che il velo lo possono portare in casa, dove vogliono, è libero, sono liberi di portarlo. Quello che non devono portare è il velo che copre i lineamenti. La nostra legge prevede che il viso deve essere scoperto, quindi non possono andare in giro con un velo che non fa individuare il reale aspetto della persona, come non possono andare in giro quei signori che vanno in giro con i caschi nelle manifestazioni o con i passamontagna. Quindi la legge è quella, sono in Italia e si devono adeguare, perché noi, se andiamo nei loro paesi, e ci ho vissuto parecchio, dobbiamo Dove ha vissuto lei, Roberto? Ho vissuto in Algeria, ho vissuto in Iraq e ho vissuto in Libia. Quindi noi ci dobbiamo adeguare, loro devono fare altrettanto, perché la libertà deve essere reciproca. Grazie. In casa devono, lo possono indossare, non c'è problema. Fuori no, perché devono essere individuati. Cioè coprire i capelli, sì, quindi sia le hijab, no alle altre forme di velo che coprono invece anche il volto. Sumaya, la chiamo in causa ancora una volta. Sumaya Abdelkader ha sentito tutte le considerazioni e questa sottolineatura, bisogna adeguarsi a quella che è la legge italiana, non è certo la prima volta che sente questo tipo di argomentazioni, cosa risponde? Beh, innanzitutto io voglio dire che è comprensibile che le persone siano un po' confuse o comunque abbiano un certo tipo di atteggiamento o facciano un certo tipo di discorso, perché purtroppo sono bombardati di disinformazione che confonderebbe davvero chiunque non abbia un minimo di basi per analizzare le cose come stanno. Rispetto alla questione del velo, la libertà di scelta, eccetera, abbiamo già detto un po' come stanno le cose rispetto a un'imposizione, invece una reale libertà di scelta. Ecco, in questo caso bisogna fare una forte e netta differenza tra ciò che è emanazione della tradizione culturale di alcuni paesi e ciò che è la religione. A volte purtroppo le tradizioni superano e prevaricano quello che è un significato religioso. E ne assumono e danno significati nuovi e differenti. L'episodio che raccontava poco fa l'ascoltatrice del con il marito a cui bisogna chiedere l'autorizzazione è inaccettabile, perché l'Islam arriva per liberare la donna da una condizione di sottomissione all'uomo. Allora queste persone hanno completamente e totalmente miscompreso quello che è il significato di liberazione della donna nell'Islam. E così per tante altre cose, ma questi sono tutti elementi riconducibili ad elementi tradizionali che anche noi stessi musulmani combattiamo e spesso facciamo anche noi fatica a far superare alle persone. Le faccio un altro esempio che c'è purtroppo tra alcune persone, è quello di negare alle donne di avere un ginecologo maschio. Va bene, ci sta la scelta, se una libera, se una si sente più tranquilla con una ginecologa donna, questo lo fanno. Se è la scelta di una donna. Assolutamente lo fanno anche le non musulmane. Però ci sono casi di emergenza in cui ci sono arrivate donne che stavano per morire perché il marito non voleva che le loro mogli si scoprissero di fronte a un ginecologo uomo e si rivolgevano all'imam, si rivolgevano a tutti per chiedere cosa facciamo, e noi ovviamente sistematicamente ogni volta gli dicevamo ma stiamo scherzando. Cioè, non ma voi chi tipo. Scusi? Noi come comunità, come imam, come guide spirituali, eccetera, che siamo di. E quindi lei sottolinea, c'è una lotta verso l'emancipazione da certi meccanismi che sono di paternalismo quasi, di tradizione oppressiva. Assolutamente sì. E poco, e anche all'interno della comunità musulmana. Ciò non toglie che se una donna intende indossare l'hijab, cioè quel velo che copre, come lo possiamo definire? Mi aiuti a si raccontarlo. Niqab. E perché addirittura qui nel tentativo di comprendere ci hanno anche fornito delle illustrazioni delle diverse tipologie di velo fornite da stampa straniera, e addirittura qui il niqab è quello che lascia scoperto solo gli occhi, per dirle quanta disinformazione ci può essere anche da parte dei giornalisti che cercano invece di approfondire l'argomento. Quindi il tema che si citava dell'istruzione, quello davvero è la chiave del fondamento di tutto, perché una donna istruita non può accettare che gli si imponga qualcosa che è contro la sua indole, qualcosa che è contro la sua volontà. E da lì parte tutto, quindi le lotte di Malala e di altre sono assolutamente da sostenere in questa prospettiva. Tra l'altro ricordo che c'è un altro premio Nobel, una donna musulmana che porta il velo, che è Tawakkul Karman, la donna yemenita che qualche anno fa e tuttora è rappresentante e porta la voce delle donne musulmane nello Yemen, ma non solo, rispetto ai diritti della donna. Grazie Sumaya. Noi ci fermiamo un momento per controllare la situazione del traffico e ritorneremo insieme a padre Giuseppe Scattolin, missionario comboniano che ha lavorato in Libano, in Sudan, in Egitto e attualmente professore di mistica islamica all'Università Gregoriana al Pisai. Tra pochissimo, prima il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E siamo all'ultimo segmento di questa trasmissione in cui abbiamo voluto tastare il polso sulla conoscenza di questo aspetto che ancora tanto fa discutere, mentre in alcuni paesi, come i paesi soprattutto anglosassoni, è vissuto con estrema, come dire, indifferenza, nel senso che si dà per assodato che sia una scelta individuale, e quando la donna ha deciso di velarsi non è questione di nessuno, per cui si vede a tutti i livelli insegnanti, guidatrici di tram, persone che lavorano nei negozi tranquillamente, serenamente, senza che questo sollevi nessuno scandalo, persone con il velo. In Italia invece ancora si discute, e quindi è giusto capire perché e cos'è che non si capisce di questo aspetto. E abbiamo chiamato in aiuto anche padre Giuseppe Scattolin, lei che è un padre cattolico missionario comboniano. Come vede questa questione, questa incomprensione? C'è chi ha detto che il velo richiama anche la tradizione religiosa cattolica del velo delle suore. Buongiorno. Buongiorno padre. Sì, beh, cercherò di dire qualche cosa, che è un argomento complesso. Come del resto avevo sottolineato la volta scorsa, l'Islam è un fenomeno storico e quindi una lettura completa dell'Islam deve essere fatta alla luce della storia, soprattutto seguendo una certa metodologia alle fonti dell'Islam, che tutti sanno sono prima di tutto il Corano e poi le tradizioni attribuite a Maometto, i detti, eccetera. Quindi bisogna leggere questo problema del hijab o del velo, come lo chiamiamo noi, alla luce di queste fonti, che esigerebbe una lunga discussione. Ma in breve direi, accenni brevi, nel Corano direi che il problema non è che sia trattato a lungo. Fra l'altro, per esempio, io credo che i nostri miei ascoltatori arabi conoscono molto bene il termine hijab nel Corano, non è esattamente usato per il velo delle donne, quanto piuttosto con una specie di tenda, soprattutto in relazione alle spose del profeta, con cui dovevano in qualche modo non essere in contatto diretto col mondo esterno, con una specie di tenda. Il termine arabo di quello che noi diciamo velo è un'altra cosa nella tradizione islamica. E passando un po' a volo di uccello, diciamo, alla storia islamica, vediamo che quello che lui appunto accennava prima, quel termine niqab, la velazione completa della donna, è piuttosto tardivo, non è fin dalle origini, e sembra che sia entrato nell'Islam attraverso la tradizione iranica della Persia, piuttosto attraverso sviluppi che è inutile che andiamo per dettagli. Mi pare che la questione si pone ora, diciamo da un secolo, nell'Islam, in concomitanza, o meglio come fenomeno che accompagna il fenomeno della modernizzazione dell'Islam, cioè lo scontro tra Islam e modernità, che come ho accennato precedentemente ci sono vari atteggiamenti o risposte a questo incontro o scontro, tutti e due esistono. C'è un movimento conservatore che cerca quindi di ritornare un po' a un tipo di tradizione però ormai letta in forma ideologica, e movimenti di apertura, di accettazione di molti elementi della modernità, per esempio l'istruzione della donna, a parte che nella tradizione c'è anche quello, movimenti di diritti umani, eccetera, eccetera, che fa parte un po' della modernità. Diciamo, questo è il contesto. Purtroppo, e semplifico un po' le cose, purtroppo in questo contrasto, diciamo, quel discorso fondamentalista si è appropriato del velo, che lo chiamano col termine hijab, anche se tradizionalmente non è quello il termine, per presentare un tipo di donna musulmana integrata in questo movimento conservatore fondamentalista. Io accenno semplicemente a un fatto che può essere secondario ma significativo. Ho frequentato l'Università del Cairo. Negli anni 60 le prime donne, ragazze che uscivano, che si qualificavano, si graduavano all'università, nei quadri esposti là, non c'era nessuna ragazza velata. Attualmente, se uno entra all'Università del Cairo, difficilmente trova una ragazza che non porta il velo. Non credo che sia un fenomeno spontaneo, di libera scelta. Ah, lei non crede che sia un fenomeno di libera scelta? No. Come mai? In 40 anni sono passati dalla libertà completa di non portare il velo a quasi una universalità di portare il velo? Non credo. Cioè, che la donna musulmana qui nei nostri paesi possa sentirsi libera o no, ma in moltissimi contesti islamici no. E quindi questo è il problema. Per cui certamente dovrebbe essere lasciata la scelta alla donna stessa, alla ragazza stessa, se vuole portare. Una volta appurato che questa scelta è spontanea, autonoma, allora a questo punto andrebbe bene, diciamo così, ma se è il fenomeno di un condizionamento, soprattutto, soprattutto abbiamo sentito l'episodio dell'ascoltatrice, addirittura un'imposizione, entriamo in un altro contesto. Ritorno. Un momento solo, che il niqab in ogni caso non fa parte della tradizione, la copertura completa. In Egitto addirittura la Mecca non è permessa. Ritorno un attimo a Paola Caridi, che ci ha dato il là per questo tipo di discussione, che proprio faceva questa distinzione tra ciò che si è un po' mescolato, ciò che viene attribuito alla religione e in realtà è una tradizione quasi paternalistica di una società o di tante società patriarcali. Quindi ha sentito Paola Caridi, vorremmo concludere proprio con te. Sono stati fatti, secondo te, nella comprensione di questo fenomeno, dei passi avanti rispetto a quando tu ti eri trasferita a vivere al Cairo e a Gerusalemme, o ancora una volta quel poco che era stato fatto per illuminare, per capirsi, per comprendersi a vicenda non c'è più, viene azzerato sulla scia di contrasti e di urla, di pregiudizi e di razzismi reciproci? Sì, non è stato fatto nessun passo in avanti, mi dispiace di aver scritto inutilmente Arabi Invisibili, pubblicato nel 2007, cioè quello che dico io è che stiamo ancora a ragionare del velo, quando invece dovremmo ragionare di altro, di diritti umani, di diritti civili, di centinaia di migliaia di siriani uccisi nel giro di 4 anni, cioè... Di accesso all'istruzione. Mi sembra che siamo veramente ancora alle origini di una conoscenza che invece negli scorsi secoli era tratto comune. Avevamo anche una lingua franca, una lingua comune nel Mediterraneo che si chiamava Sapir e che ci faceva dialogare. E mi sembra che ancora una volta le donne siano nello stesso tempo doppiamente vittime, proprio perché continuiamo a parlare del velo invece di parlare di diritti. I diritti, se sono, come dire, rispettati, sono diritti di tutto, sono diritti civili, sono diritti di genere, sono diritti all'istruzione, sono diritti alla libertà di espressione, alla libertà di scelta. E invece ancora una volta questo pezzetto di stoffa, che sia lo hijab, che sia il niqab, che sia il chador, che sia il burqa, in questo caso non arabo, continua a essere una velatura su quella che è la realtà dei paesi. Certo che nell'Università del Cairo ora le ragazze sono in massima parte velate, e le uniche non velate forse sono le copte, le egiziane copte. Ma quello che però non si pensa è che mentre 40 anni fa vi era una nicchia di ragazze che accedevano all'istruzione. Adesso ora sono molte di più, Paola. Sono masse e questo anche va preso in considerazione. Grazie alla Paola Caridi, ai nostri ospiti in redazione, a Laura Faggina, Silvi Boccaletti, a Luca Cremonese, Alessandro Longoni, Peter Bescapè in regia. Siamo arrivati alla conclusione. Spunti di Vista ritorna domani mattina alle 7:15. Buona giornata da Irene Zerbini.